Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Ci siamo, sono le 7:19 minuti, siamo pronti alla rassegna stampa. Vi ricordo gli ospiti di oggi. Oggi un piatto ricchissimo nel nostro menù. Avremo ospite alle 8:15 Giulio Tremonti, l'ex ministro dell'economia. Poi avremo ospite alle 8:30 l'imprenditore Renzo Rosso del Diesel, anche per parlare dell'iniziativa che ha fatto, ha messo a disposizione 5 milioni di euro per l'Emilia, per i terremotati. E è il giorno in cui Radio 24 oggi dedicherà gran parte della programmazione, con stasera anche lo speciale sull'Emilia che riparte a 6 mesi dal terremoto. E avremo ospite alle 8:45, un ospite sui generis straordinario, Antonio Albanese, Cetto la qualunque. Insomma, avete capito gli ospiti di oggi? E allora andiamo a sfogliare i giornali in edicola. In questo venerdì 14 dicembre, intanto i titoli, Sole 24 Ore apre sull'accordo in Europa sulla supervisione unica per le banche. Il titolo di apertura, banche, vigilanza alla BCE. Mentre la decisione politica, che è davvero senza precedenti, del Partito Popolare Europeo di indicare in Mario Monti la guida futura auspicabile per l'Italia, è il titolo un po' degli altri giornali. Corriere della Sera, ora Monti scenda in campo, il PPE processa Berlusconi, il Partito Popolare Europeo di cui fa parte anche il Popolo della Libertà. La Repubblica, l'Europa vota Monti, si candidi. Europa, pressing su Monti, questa è l'apertura della Stampa, mentre il giornale Italia, rischio colonia. Per il Messaggero, anzi scusate, per il Secolo XIX, Monti, il colpo di teatro, Libero, ci tocca un Montoni. Eccolo qui il Messaggero invece, l'Europa, Monti si candidi. Pubblico, botto di fine anno e c'è lo champagne con il tappo che ha al volto di Mario Monti. L'Unità, il PPE benedice Monti. Avvenire, il PPE convince Monti. Vedete che il tema è declinato tutto su questo, mentre l'apertura del Fatto Quotidiano è Dell'Utri intervistato, deve candidarmi con Silvio, storie intrecciate. Mentre il Manifesto apre sulla perizia, shock su Stefano Cucchi, ricordate, morto e morto secondo la perizia per malnutrizione, questo mentre era in custodia al Tribunale di Roma, due volte ucciso, questo è il titolo del Manifesto con la foto di Stefano Cucchi. Allora, prima della notizia più importante, politica e anche economica, di che sono le aperture dei giornali, classica notizia da mani sul volante, soprattutto se siete al nord, che in questi tempi, in questi momenti nevica anche, quindi già andate piano, mani ancora di più sul volante. Poi, nonostante questa notizia, mani sul volante comunque, perché sennò succedono i disastri. Lombardia, pagina 22 della Repubblica, lo scandalo dei rimborsi, indagati 40 consiglieri di PDL e Lega. Dunque continuano, sapete che di recente la Guardia di Finanza, dopo la vicenda Fiorito in Lazio, è andata a controllare un po' in tutte le regioni i conti, e ieri si è scoperto nel Piemonte 4 indagati, gente che si è comprata, pare, le seghe circolari, le motoseghe, i tosaerba, spese nei night eccetera, ma vedremo poi se le accuse saranno confermate. Lombardia invece, per Repubblica, Emilio Randaccio a pagina 22, dai ristoranti alle sigarette nel mirino, le spese della maggioranza. Qualcuno si è fatto rimborsare perfino le sigarette, altri i cioccolatini che compravano in tabaccheria. Ma un cioccolatino, uno esce e dice il bacio Perugina, che porta magari alla collega in ufficio per fare una gentilezza, diciamo così, e poi se lo fa rimborsare. No, non ci voglio credere. C'è perfino un consigliere regionale, scrive Randaccio, del PDL, che sotto la voce delle spese istituzionali metteva i pranzi che consumava in un ristorante alla moda a pochi passi dalla sede del Pirellone durante le pause delle sedute. Vabbè. Quando il 10 ottobre scorso il procuratore aggiunto di Milano Robledo ha spedito la finanza in regione a acquisire i rendiconti 2008-2010 relativi ai rimborsi garantiti ai gruppi consigliari di PDL e Lega, probabilmente non pensava di scoprire così tante anomalie. Nel mirino sono finiti quasi tutti i consiglieri della maggioranza della giunta uscente, del governatore Formigoni. Si parla ovviamente di soldi pubblici, la solita questione, i soldi pubblici e come vengono utilizzati come rimborsi. L'ipotesi è peculato, come sempre, nelle carte uscite nelle carte di credito per milioni di euro. E la finanza ora vuole acquisire tutti gli scontrini, anche quelli dei cioccolatini e dei baci Perugina. Oddio, è pubblicità dire dei baci Perugina. Vabbè, insomma, il cioccolatino che mi è venuto in mente più famoso, che venivano comprati nei bar. Invece c'è un clima, come racconta molto bene un articolo imprescindibile oggi Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, c'è un clima a Montecitorio, pagina 11 del Corriere, è di tensione, perché adesso si sta finendo la legislatura e alla fine della legislatura ognuno cerca di capire che ne sarà di se stesso, dei suoi collaboratori, più di se stesso che dei suoi collaboratori in Parlamento. I deputati e il terrore di restare fuori. Chi saranno mai sti volti nuovi? Ecco, perché tutti si interrogano. Aldo Cazzullo fa un viaggio in transatlantico a Montecitorio, dove scrive: addio parrucchiere a prezzo politico, addio carpaccio di branzino a 3,90 euro, addio biglietti aerei gratis. Sempre mani sul volante voi, eh? Il transatlantico pare una fabbrica occupata, quasi nessuno lavora e quasi tutti si riuniscono in capannelli di onorevoli angosciati dallo spettro della disoccupazione, che si sciolgono solo all'arrivo del temuto ex dipietrista barbato. Occhio, quello è pazzo, ci registra, ci filma e ci mette su YouTube. Sì, parentesi, Barbato è notorio per fare queste cose ai suoi colleghi. Allora, nei capannelli in fondo a destra si discute delle quote berlusconiane. Allora, ha detto 20% di volti nuovi della cultura e dell'arte, 20 di amministratori locali, 10 di politici, 50 di gente che ha già un lavoro. Arriva Baldelli, Simone, ma tu Baldelli un lavoro ce l'hai già, l'imitatore. In effetti lui fa l'imitazione di Cicchitto e Tremonti ed sono quasi perfette. Manuela Di Centa, ex sciatrice, furibonda coi giornali che hanno pubblicato la sua foto nella casella degli esclusi. Perché proprio io? Dice. Oppure, sentite, Scilipoti, io non resto certo disoccupato e torno a fare il medico, sono ginecologo, ostetrico, oncologo clinico, agopuntore, specializzato in fisioterapia, fisiopatologia della cervice e moxibustione. Mamma mia, ragazzi. Come cos'è? Infatti lo stesso Scilipoti chiede. Come cos'è? È la terapia del calore, no? Ho un mestiere, io. Questo Scilipoti. Marco Milanese invece viene ignorato da tutti. Eccolo che arriva Franco Barbato, quello che terrorizza tutti girando con la telecamerina. Io non mi ritiro di certo, anzi mi sono appena candidato a premier. Come sarebbe con quale partito? I partiti non servono più a nulla, sono controproducenti. E poi ancora Franco Barbato dice: sì, lo so, dicono che sono pazzo, loro invece, cioè gli altri parlamentari, sono dei ladri. Qui dentro è pieno. I gruppi parlamentari hanno incamerato 154 milioni in 4 anni, a decine hanno preso i fuori busta, altro che Fiorito. Ma io li ho denunciati a Befera, in procura e alla Corte dei Conti, ne vedrete delle belle. Poi parla Pierluigi Castagnetti, che passa di lì e dice: io mi ricordo quando già Mino Martinazzoli in piena Tangentopoli mi incaricò di prepensionare 300 deputati democristiani, mi fecero impazzire. Vincenzino Russo, 9 legislature, dovetti minacciarlo di prenderlo a calci nel sedere per mandarlo. E poi De Mita mi confidò: la politica per me è una droga, io senza muoio. Questo Ciriaco De Mita quando doveva essere fatto fuori. Insomma, tutto così. Francesco Pionati dice: beh, se va male torno in Rai, come la Santoro, Gruber, Badaloni e ovviamente Marrazzo. E vabbè, questo è il clima che c'è a Montecitorio: deputati e il terrore di restare fuori. Chi saranno mai sti volti nuovi? Leggete l'articolo di Aldo Cazzullo, pagina 11 del Corriere della Sera, soprattutto con De Mita che dice: io senza la politica, per me è come una droga, senza muoio. Eccoci qua allora alle 7:35 minuti, continuiamo la lettura del giornale. Allora tuffiamoci in quello che è successo nella giornata ieri a Bruxelles, dove in questa riunione del Partito Popolare Europeo è successa una cosa sicuramente inedita, che non ha precedenti nella storia dell'Unione Europea. Riunione del Partito Popolare Europeo, cioè il partito che racchiude tutte le anime di centrodestra, tra cui anche il Popolo della Libertà, quindi era annunciato Silvio Berlusconi, arriva lì e c'è anche Mario Monti. Ma come? Il premier italiano, che non fa parte del Partito Popolare Europeo. Beh, una vicenda abbastanza incredibile. Una mossa con l'invito del presidente del Partito Popolare Europeo, che ha voluto esplicitamente invitare il premier italiano Mario Monti. E ovviamente si sono scatenate oggi sui giornali italiani, c'è l'interpretazione di questo molto chiara: l'Europa, un partito importante, il partito di riferimento del centrodestra, dei partiti di centrodestra dei vari stati dell'Unione Europea, ha fatto un endorsement, come si direbbe, abbastanza clamoroso per Mario Monti. E infatti i titoli dei giornali sono questi. Il più esplicito di Repubblica è: l'Europa vota Monti, si candidi. Secondo Gerardo Pelosi sul Sole 24 Ore, pagina 11, il PPE fa pressing su Monti, candidati, anche la Merkel lo spinge. E Berlusconi ha approvato a questo punto l'anticipo, cioè che cosa ha detto, l'avete sentito anche nel giornale radio: beh, ma sono io che appoggio Monti, sono io che ribadisco, vorrei che Monti fosse il federatore dei moderati. Gerardo Pelosi nella cronaca: che la crisi di governo e le prossime elezioni italiane fossero guardate con particolare attenzione, con apprensione dal resto d'Europa, lo si era capito da tempo. Solo ieri però, davanti ai giardini dal disegno massonico di Park Royal, nella sala che ospita la tradizionale riunione del PPE, si è avuta la netta sensazione di come anche la politica italiana, e non solo il suo debito pubblico, sia ormai un vigilato speciale in Europa. Per placare queste ansie, l'unica risposta possibile è che Mario Monti accetti di candidarsi alla guida di un vasto schieramento di formazioni moderate, non solo del PDL, ipotesi che lo stesso premier non si sentirebbe più di escludere con tanta nettezza. Quello che è andato in scena ieri è un coup de théâtre, un colpo di teatro, assomiglia molto a uno psicodramma in cui quasi tutti i protagonisti della politica europea, dalla cancelliera Merkel al lussemburghese Juncker, si incaricano di svolgere un ruolo quasi maieutico, ricomponendo le fratture esistenti nell'area dei moderati italiani allo scopo di colmare il vuoto attuale di rappresentanza del PPE in Italia. Ed eccolo qui, scrive Pelosi, dunque l'arrivo a sorpresa di Monti in una riunione prettamente politica, una sorpresa forse per lo stesso Silvio Berlusconi, ma non per il capogruppo italiano del PPE Mario Mauro, da subito schieratosi su Monti. Infatti Mario Mauro viene dato come lo stratega di questa linea anti-Berlusconi, o meglio virando verso Monti. Nel retroscena di pagina 3 del Corriere della Sera, firma Luigi Offeddu, il titolo è: quell'invito a sorpresa di Martens, tutto è accaduto in quel momento, le 10:15 del mattino di ieri, quando una guardia del corpo si avvicina a Mario Monti, gli consegna un bigliettino con due righe, il primo ministro siede a un tavolo, si alza, esce, ha già il cellulare in mano, 13 minuti esatti dopo rientra, e se quella è stata la telefonata sorpresa che più tardi verrà raccontata da Wilfried Martens, il presidente del Partito Popolare, è allora che comincia la giornata più lunga dello stesso PPE. Martens alza il telefono, invita Mario Monti al vertice dei popolari, dove ci sarà anche Berlusconi. I due si incrociano poco. Berlusconi è arrivato a Bruxelles con la sua consueta autostima. Ragazzi, che forza che ho, che io sia importante lo si sa, è bastato dire che torno e tutti i quotidiani scrivono: torna Berlusconi, trema l'Europa. E poi un Berlusconi che, finito invece il raduno, questa riunione del PPE, ha detto: io sfiduciato dal PPE, ma che? Sono stato coccolatissimo. La realtà, insomma, pare un po' diversa. Raccontano che Angela Merkel non gli abbia rivolto neppure la parola. Nella notte François Hollande, presidente francese, ha fatto una dichiarazione alle 3 di questa notte. Hanno battuto le agenzie questa dichiarazione: anche per me meglio Monti. Insomma, che cos'è? Un'ingerenza dell'Europa oppure una via, una guida illuminata da parte dell'Europa? Come la vedete? Tra l'altro di questo parleremo anche con Giulio Tremonti, uno che l'Europa la conosce, alle 8:15. La battuta di Monti, racconta il Corriere della Sera con Marco Galluzzo a pagina 5, sarebbe stata questa ad Angela Merkel: la mia visione dell'Italia è diversa da quella di Berlusconi. Questa è la frase, anche poco enigmatica, sempre molto col classico aplomb montiano, per dire in realtà insomma che la posizione è ben sono posizioni radicalmente diverse. Qui ovviamente si va di dichiarazioni ufficiali e poi di dichiarazioni di retroscena. Le dichiarazioni ufficiali, Monti per esempio ha detto: non rispondo alla domanda, non è il luogo, il momento adatto sulla mia possibile candidatura. Il retroscena invece di Carmelo Lo Papa su Repubblica, pagina 3, racconta di un Silvio Berlusconi che, al di là dei visi molto distesi e sorridenti, del volto disteso e sorridente finita la riunione, in realtà era molto arrabbiato per la presenza di Mario Monti, una presenza che Silvio Berlusconi avrebbe commentato così, secondo Repubblica: se avessi saputo cosa mi attendeva, se avessi saputo che avevano invitato anche lui, non sarei venuto. Questo è lo sfogo postumo di Berlusconi, che considera questa una trappola di cui ha saputo quando non poteva più dare forfè. E dunque ha lasciato l'Académie quando fuori era già buio, le luminarie di Bruxelles erano accese, 65 minuti dopo Monti e gli altri big chiuso in una sala a pianificare con Bonaiuti e lo staff la difesa da offrire alle telecamere. Sfiduciato? Ma che? Coccolato! Questa l'autodifesa. Anche se Berlusconi si sarebbe sfogato con i suoi, appunto, dicendo di una trappola, non sapevo dell'invito di Monti. Fa un po' paura Monti, a molti fa paura. Oggi per esempio troverete un'intervista a Massimo D'Alema, intervistato da Roberto Zuccolini sul Corriere della Sera pagina 9. Il titolo dell'intervista di D'Alema è molto chiara: Monti, l'ho detto a lui personalmente e ora lo dico pubblicamente, sta logorando la sua immagine. Preservi se stesso, sia utile al paese, non si faccia coinvolgere negli spasmi di una crisi politica sempre più convulsa e sconcertante per i cittadini. Il titolo dell'intervista è: il premier contro chi lo sostiene sarebbe moralmente discutibile. D'Alema insomma dice: Monti non deve candidarsi e nessuno usi il suo nome per una lista. Verrebbe da commentare paura, In realtà la domanda c'è, di Roberto Zuccolini: senta, non è che avete paura di una discesa in campo così autorevole? No, siamo nelle condizioni di vincere comunque le elezioni, non abbiamo paura di confrontarci, non è questo il problema, ma trovo che sarebbe illogico, dice D'Alema, è in qualche modo moralmente discutibile che il professore scenda in campo contro la principale forza politica che lo ha voluto e lo ha sostenuto nell'opera di risanamento. Avendo grande stima di lui, spero che non lo farà. Ad ogni modo non si può dire, non si può più andare avanti con questa incertezza sul suo futuro. È meglio che chiarisca al più presto. Insomma, un D'Alema che anche gli dice: non candidarti, è moralmente discutibile che ti candidi contro il PD che ti ha sostenuto, e poi comunque in fretta decidi, perché questa incertezza non ci può portare a nulla. Tra l'altro un Massimo D'Alema che poi più avanti nell'intervista fa una sorta di riappacificazione anche con Matteo Renzi: bisogna tener conto dei suoi voti, lui sostiene che continuerà a fare il sindaco, ma non vedrei nulla di male se entrasse in un futuro governo. Così Massimo D'Alema su Matteo Renzi. Conferma anche D'Alema: non mi ricandiderò, sono e ho dato la mia parola, e poi si vedrà. Vorrei ricordare che non sono disoccupato, sono presidente della Fondazione Italiana Europei, sono a capo della Foundation of European Progressive Studies e faccio parte dei vertici del PSE. Ma certo, se arrivasse una chiamata per responsabilità istituzionali, se arriverà valuterò la chiamata. Quando i politici, che quando arriva le chiamate per interessi istituzionali, poi cambiano sempre idea. Questa è l'intervista a Massimo D'Alema di Roberto Zuccolini sul Corriere della Sera. Il PDL in realtà sta vivendo una fase di grande travaglio, perché anche questa discesa possibile in campo di Mario Monti, questo endorsement dell'Europa, dei leader europei, del Partito Popolare Europeo, è sempre più maggiore il numero di esponenti del Popolo della Libertà che si sta smarcando dalla linea di Silvio Berlusconi. La svolta dei montiani del PDL, pronta la scissione contro Silvio per sostenere il professore, così Repubblica, da Frattini a Mauro, Mario Mauro, appunto, del vice, il capo delegazione del PPE, che viene dato come il capo di questa fronda. Ma un altro che oggi, con un paio di interviste sulla Stampa e Avvenire, si smarca dalla linea del PDL è Alfredo Mantovano, ex sottosegretario all'interno. Lo strappo di Mantovano, anch'io con i ribelli, ma non è una scissione, intervistato da Mattia Feltri sulla Stampa. Eccolo qui: parteciperò alla manifestazione di domenica che mette insieme tutto ciò che ha attraversato 20 anni di centrodestra, persone, idee, componenti sociali chiare, Franco Frattini, Cicchitto, Sacconi, Quagliariello, Alemanno. L'idea di fondo è quella di dare contenuto alla campagna elettorale. Insomma, è uno smarcamento. Anche su Avvenire, intervistato Alfredo Mantovano da Angelo Picariello, trovate l'intervista a pagina 8. No alla Lega, no ai populismi, il partito marcerà unito al professore. E allora, insomma, sempre più persone per Mario Monti. E invece Umberto Bossi redivivo e Marcello Dell'Utri redivivo dopo il traffico. E allora Umberto Bossi ieri a Montecitorio ha rilasciato questa dichiarazione sui fucili. Oggi la riporta a pagina 3, il Secolo XIX. Trovare praticamente la quadra e poi la questione dei fucili, cioè vogliamo stare a Roma a meno che non dovessimo imbracciare i fucili e fare qualcosa di rumoroso. E vabbè, insomma, il solito Umberto Bossi che ogni tanto rispolvera questa idea. La trovate sul Secolo XIX, ma questa frase l'ha detta alle agenzie era ieri in Transatlantico in Parlamento. Invece Marcello Dell'Utri e questo dilemma sulla candidatura. Marcello Dell'Utri fa un'intervista oggi al Fatto Quotidiano. Ogni mese circa Beatrice Borromeo lo chiama e Dell'Utri rilascia un'intervista a Beatrice Borromeo sul Fatto Quotidiano. È nato questo feeling molto particolare. La mia storia è la stessa di Berlusconi. È mio diritto essere in lista. Allora svela così l'arcano del mi candido, non mi candido. Non possono non ricandidarmi. Io lì non sono più sicuro neanche a Santo Domingo, e sa perché le autorità locali, su input della Procura di Palermo, sono andate oltre le richieste di informazione che dovevano trasmettere. Ci posso abitare, ma non posso vendere la mia villa, mi hanno bloccato tutto. Insomma, non c'è alcun posto al mondo dove possa andare ormai, e quindi mi devono candidare. Ma Berlusconi ha detto di no. Ma Berlusconi era rimasta quello che io avevo detto un mese fa. Cioè che non mi volevo candidare, ma io non sono preoccupato, sono andato a casa sua ieri sera, cioè mercoledì, e lui: ma perché non me l'hai detto prima che hai cambiato idea? Mi spiace, non c'è problema, ora la situazione cambia. Questa è la versione di Dell'Utri. Io d'altronde sono il primo della lista, è il mio partito, sono io che decido, credo che se c'è uno che si deve candidare sono io, scusi la presunzione. Così Marcello Dell'Utri. Certo non lo posso mica costringere, però se mi vuole escludere l'unico modo è rinnegare il mio passato, rivedere tutta la mia storia e dire che ho avuto torto. Un po' difficile, dice Beatrice Borromeo, visto che le vostre storie sono intrecciate. Appunto, risponde Dell'Utri. E poi ancora su Alfano, attacca Alfano, anche se dice: guardi, non vorrei insultarlo perché Plutarco sosteneva che quando due si insultano poi non si capisce più a chi ha torto. Però è ovvio che non ha le palle. È ovvio che è il nulla del nulla e non ha fatto nulla. Da quando guida il partito tutto è fermo, non ci sono nuovi coordinatori né dirigenti, lo sostengono tutti, solo che io l'ho detto ufficialmente. Questo Marcello Dell'Utri sul Fatto Quotidiano. Abbandoniamo la politica per dire che l'economia regala cose poco allegre, come racconta il Sole 24 Ore. La crisi contagia anche le famiglie, la prima pagina del dorso di Impresa e Territori, a pagina 47. Crescono le disuguaglianze, il rapporto della Banca d'Italia dice che il 10% dei nuclei familiari possiede il 46%, per la verità 45,9% della ricchezza del paese. Capito? Le diseguaglianze, il 45%, quasi metà della ricchezza del paese in mano al 10% dei nuclei familiari in Italia. In valore assoluto, scrive Rossella Bocciarelli, ancora un bel gruzzolo, anche se 5 anni di crisi finanziaria l'hanno ridotto del 5,8%. La ricchezza netta delle famiglie italiane, secondo i calcoli di Banca Italia, era pari a circa 8.169 miliardi di euro alla fine del 2011, una cifra che corrisponde a poco più di 140.000 euro pro capite, a 350.000 euro per famiglie. Secondo stime preliminari di Via Nazionale, inoltre, nel primo semestre del 2012 la ricchezza netta sarebbe ulteriormente diminuita dello 0,5% in termini nominali rispetto alla fine dello scorso dicembre. Dunque, avete sentito, una ricchezza che sarebbe un bel gruzzoletto, 350.000 euro a famiglia. Il problema è che la redistribuzione di questa ricchezza non è ovviamente equa. Come non è che debba essere equa al 100%, ma insomma il 10% dei nuclei familiari possiede metà di questo gruzzoletto, poco meno della metà. Per quel che riguarda invece l'economia, ieri in Europa hanno deciso una cosa importante, cioè è nata la vigilanza unica europea. Anche qui tutti i dettagli li trovate sul Sole 24 Ore. Sulle banche, dopo anni di discussioni, è stata trovata un'intesa sul trasferimento della sorveglianza bancaria dagli Stati membri alla Banca Centrale Europea, un accordo che dovrà essere approvato nel Parlamento Europeo ora e che prevede che alla BCE vada la vigilanza sulle banche più grandi. Tra l'altro Moria Longo, a pagina 5 del Sole, racconta quali potrebbero essere i riflessi per l'Italia. In Italia la svolta riguarderà 15 istituti, secondo i primi calcoli, potenzialmente altri 4 che hanno attivi poco sotto la soglia dei 30 miliardi, quindi si potrebbe arrivare fino a 19 istituti bancari coinvolti da tutto questo. Scampoli dalla cronaca, è pronta la grazia per il corvo. Il maggiordomo ex del Papa, Paolo Gabriele, domani, racconta il Corriere con Maria Antonietta Calabro, pagina 29, dovrebbe arrivare la grazia del Papa, il perdono. Il reo è pentito e si è ravveduto. Era stato condannato a 18 mesi di carcere per furto di documenti, pare che domani possa arrivare la grazia, con l'obbligo però di vivere lontano dal Vaticano. Questa era l'ultima notizia? Sì, guardo Filippo, possiamo fermarci qui. Allora, giornale radio delle 8 e poi avremo Giulio Tremonti, Renzo Rosso della Diesel e Antonio Albanese, Cetto la qualunque.